Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Solo pochi giorni fa abbiamo parlato di una iniziativa per far rivivere, per così dire, oggetti usati. Un buon trapano, per esempio, una volta rimesso a punto, è un ottimo trapano anche se ha parecchi anni di vita alle spalle. Pensate che un motore elettrico, che è il cuore del trapano, dura 30 anni. E beh, c'è chi sostiene, come abbiamo visto, che quello del ricondizionamento di prodotti di qualità giunti a fine vita, ma che con un intervento, per così dire, di alto artigianato possono tornare come nuovi, assumerà le caratteristiche addirittura di un nuovo, un importante settore della green economy. Ebbene, stasera Chiara Albicocco ci porta un esempio lampante di ciò. Parliamo in questo caso di convertire vecchie auto tradizionali, auto usate con una carrozzeria ancora in buone condizioni, in auto elettriche nuove fiammanti. Sentite un po'. Simone Rambaldi della Fondazione Open Source Evinow. Siamo qui con una Smart vecchia, ma è nuova, vecchia nuova Smart. Che cos'è? Allora, è una Smart nata nel 2003. Ha viaggiato a benzina fino al 2009, poi si è evoluta e è diventata una Smart elettrica. Ecco, si è evoluta che cosa significa? Si è in qualche modo trasformata da un motore normale a benzina, avete installato un motore elettrico. Allora, è comunque un progetto, diciamo, innovativo, in fase di startup. È un progetto che mira a salvaguardare le macchine, cioè evitare che diventino rifiuti, che vengano buttate via delle macchine tutto sommato funzionanti e vengono aggiornate a quella che è la tecnologia più avanguardia adesso, quindi auto elettrica, batteria al litio. Ecco, è praticamente un'auto nuova in realtà, col motore nuovo, e quindi i consumi sono quelli di un'auto elettrica. Certo, un paio d'euro per fare un pieno dura 100 km, le velocità sono equivalenti a quelle di una Smart, quindi 120-130 km/h, ed è un'auto elettrica nuova. Questa è una Smart rigenerata, in realtà possiamo rigenerare anche altri tipi di auto, quali sono le auto che si prestano meglio? Allora, la gente non lo sa, ma nelle auto ci sono delle auto che sono nate per essere elettriche e sono state messe sul mercato a benzina. La Smart, la classe A, l'Audi A2 e la Fiat Multipla erano tutte auto concepite sul tavolo di progettazione per essere elettriche. Su queste la conversione viene estremamente bene. Ecco, però in realtà si possono rigenerare anche auto che non rientrano in questa categoria, cioè auto che hanno, non so, del 2003, che hanno ormai un 7, 8, 9 anni, ma che in realtà sono nate come auto a benzina e basta. Sì, tutte le auto possono diventare elettriche. Su alcune viene benissimo, su altre viene bene. Le auto, diciamo, più comuni da convertire sono quelle più diffuse, come può essere una Panda, una Punto. Tutte le auto, diciamo, degli ultimi 5-6 anni sono candidate eccellenti, soprattutto se è un'auto che è giovane come meccanica ma ha qualche problemino di motore. Quindi vuol dire che si toglie il motore, si mette il motore elettrico e la macchina riparte di slancio. Costo? Qui abbiamo le note dolenti, nel senso che l'auto elettrica costa molto inizialmente, ma si ripaga nel tempo, perché la conversione siamo sui 16-17 mila euro come costo proprio fisico della conversione. Che sarebbe comunque meno di un'auto elettrica, diciamo, nuova, però ecco, è comunque un'auto rigenerata. C'è un però. Esatto, che poi con 2,5 euro fai il pieno e fai 100 chilometri. Hai le assicurazioni che costano la metà, esente bollo per 5 anni, manutenzione inesistente perché il motore elettrico non ha parti in movimento, quindi ha solo, diciamo, un piccolo tagliando ogni 400.000 km, che si tratta di cambiare due cuscinetti da 15 euro l'uno. Ecco, però come tutte le auto, quando vengono customizzate, comunque se ne fanno tante, c'è ovviamente un risparmio, un abbassamento dei costi. Ed è qui che nasce un po' la vostra idea di gruppo di acquisto collettivo, l'idea della fondazione che rappresentate. Esatto, farne una è un costo elevato, farne dalle 50 alle 100 unità riusciamo ad abbattere parecchi costi, perché si comprano 100 motori, 100 pacchi batterie, si riesce a fare una produzione di piccola serie e quindi il costo, diciamo, si abbassa, nel senso che si arriva a 9.900 euro il costo della macchina già convertita, già ristrutturata anche negli interni, perché una macchina magari ha qualche piccolo difetto, vengono rifatti gli interni, viene rifatta le sospensioni se serve, più un noleggio batteria che permette a chiunque di scegliersi la batteria, perché nel gruppo d'acquisto abbiamo diviso chi vuole l'auto prettamente cittadina, quindi con una batteria piccolissima, leggerissima per girarsi in città, contro chi vuole la batteria normale da 100 km di autonomia. Un'auto così può circolare liberamente in Italia? Sì, una volta, cioè tutto questo è fatto per fare auto omologate, quindi con targa nuova, nuova libretto, quindi sono completamente delle auto a chilometri zero. Ecco, altra nota dolente però a questo punto sono le regolamentazioni, cioè le immatricolazioni. In Italia un'auto così non può essere, come dire, reimmatricolata. Come al solito l'Italia si distingue come burocrazia, nel senso che tecnicamente è possibile, solo che ci sono costi, tempi e complicazioni talmente alte che per noi risulta più conveniente appoggiarci a uno Stato membro della Comunità Europea, eseguire l'omologazione in uno Stato membro della Comunità Europea e dopodiché l'Italia è obbligata a recepire questa omologazione. Ecco, tu dici uno Stato membro perché in realtà nel resto degli Stati della Comunità Europea è possibile, cioè l'Italia è l'unica perla rara. Sì, noi abbiamo le regole sull'attuazione che siamo completamente burocraticizzati. Altrove è molto più veloce, quindi siccome il tempo è denaro, più è veloce la pratica di omologazione, più abbiamo risparmi. Quindi conviene andare in Francia, farsela rimatricolare, riportarla e insomma ritargarla come se fosse un'auto francese. Sì, questo qua è una cosa che chi compra le smart convertite o altre auto convertite non vede, cioè lui ottiene un'auto che ha già targa italiana. Addirittura in Svizzera ci sono degli incentivi per fare questo, cioè non solo avviene l'immatricolazione ma c'è anche appunto l'incentivo a far. Sì, perché Svizzera ma anche ad esempio Slovenia, sono tutti stati che si sono resi conto che il problema dello smaltimento delle auto vecchie è a livello ambientale molto elevato. Cioè questa qua è una macchina da quasi una tonnellata, cioè una tonnellata di ferro, di plastica, di rame, tutti mischiati assieme, quindi difficilmente smaltibile e difficilmente rigenerabile. Tenerla in strada il più lungo possibile permette, uno, di non inquinare come smaltimento, due, di evitare l'inquinamento delle fabbriche che dovrebbero costruire un'auto nuova che vada in sostituzione. Insomma, per restare in metafora automobilistica, ecco un altro caso nel quale la burocrazia fa da freno a mano per l'economia. Governo, se sei in ascolto, tieni presente che questo è un altro di quei casi in cui una semplificazione burocratica può determinare l'apertura di un intero settore. Ci fermiamo qui, buon fine settimana a tutti, appuntamento a lunedì.